La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti da Oscar Giannino qui alla versione di Oscar. Sono le 16.37 primi 5 secondi. Beh, quindi This is the End oggi è un pochino più appropriato ancora, perché questa sberla che viene da Bruxelles, la legge di stabilità del governo Letta, dopo alcuni mesi che abbiamo passato a sentire che con l'uscita della procedura di infrazione avevamo addirittura un bonus, non ci abbiamo nessun bonus, e anzi ci si dice che la legge di stabilità, udite udite, ve lo stiamo dicendo dalla prima sera a questi microfoni e sul Sole 24 Ore e su tutti gli altri quotidiani, e beh, non è certo quella svolta che tutti si aspettavano, e quindi pessimo risveglio. L'Italia resta una sorvegliata speciale, visto quello che perde nella sua crisi. Questa è la notizia sicuramente del giorno, almeno per me, più dell'attesa di quello che succederà domani, PDL, Berlusconi, eccetera. Ma oggi ci prendiamo un po' una pausa rispetto ai temi dell'economia che trattiamo tutti i giorni, perché abbiamo deciso di dedicare questi minuti di questa puntata, e grazie a chi ci segue in podcast, a un tema apparentemente centrico, ma che descrive in maniera, secondo me, rigorosa, almeno questa è l'impressione che mi ha fatto leggendo questo libro, uno dei mali che ci portiamo dietro da diversi decenni. Non c'è solo la politica, non c'è solo l'economia degli imprenditori privati che falliscono in Alitalia e Telecom e chiedono aiuto allo Stato, non c'è solo l'INPS che si sveglia improvvisamente e scopriamo che abbiamo miliardi e miliardi di buco per i regali alle pensioni pubbliche. C'è una questione che riguarda gli intellettuali, qualunque cosa voi attribuiate a questa definizione, e il libro di cui parliamo oggi, insieme al suo autore, è un libro che fa proprio il punto, in una maniera che mi è piaciuta tantissimo, perché è un libro abrasivo, sarcastico, che non porta un rispetto pregiudiziale a nessuno, mette in fila per molte pagine, per 260 pagine, fatti, dichiarazioni, pezzi di libri, interviste di un amplissimo numero di intellettuali italiani, di tutte le diverse scuole, di tutte le diverse simpatie politiche, e commenta però senza peli sulla lingua rispetto alle contraddizioni a cui si è ridotta questa casta, non lo so, questo sottoinsieme, insieme ampio, come lo volete chiamare, di intellettuali. Il libro si intitola Intellettuali del Piffero, sottotitolo è L'impegno viene promesso e mantenuto, come rompere l'incantesimo dei professionisti dell'impegno. E l'autore è un giornalista, un giovane giornalista, l'ho conosciuto anni fa, lavoravamo nello stesso giornale, che oggi lavora, è capo servizio al Corriere della Sera. Si chiama Luca Mastrantonio e sono felice di averlo con noi oggi pomeriggio. Buongiorno, grazie. Allora, nel tuo libro, Luca, ripeto, non guardi in faccia a nessuno. Tento di spiegare rapidissimamente a chi ci ascolta perché vale la pena, secondo me. E passo in rassegna rapidissimamente, un po' freneticamente, come tu costruisci l'ossatura del tuo libro, perché c'è una prima parte in cui giustifica questa cosa dei pifferai magici, cioè quelli che dovrebbero salvare i bambini ad Hamelin e poi finiscono per annegarli, passa in rassegna le epoche più storiche, più lontane, quando sono gli intellettuali organici vicino soprattutto alla sinistra, al Partito Comunista, ma non solo, poi finisce quell'epoca, descrive l'epoca in cui nella Seconda Repubblica si riarruolano, per così dire, chi nella sinistra di Veltroni, chi nella destra, quando la destra sembra articolare promesse e premesse per andare alle vecchie oltre le vecchie tradizioni, intorno a Fini, eccetera, eccetera. Dopodiché c'è un'analisi molto cruda del fallimento dei diversi modelli, per così dire, e di come moltissimi di loro oggi, gli intellettuali, sembrano in realtà avere un unico vero obiettivo, quello di essere i protagonisti dei media, della televisione, eccetera, eccetera. Si contraddicono, dicono in ogni occasione cose diverse, e quindi è un ritratto molto, molto, molto amaro. Amaro al punto tale che vi cito, prima di lasciare poi tutta la puntata solo a Mastrantonio con alcune domande, alcune citazioni per farvi capire quanto si può essere abrasivi. Pagina 122, schizofrenia infrastrutturale per Andrea Camilleri sul ponte di Messina. È a favore quando c'è Prodi, ma è contro quando c'è Berlusconi. Schizofrenia sovrastrutturale, quella di Gianni Vattimo, che pur di attaccare Israele dà legittimità culturale ai protocolli dei Savi di Sion, di cui riconosce la falsità e non ignora la matrice antisemita. Maldestro doppiatore di se stesso è Roberto Saviano, quando commenta gli scontri in piazza durante la manifestazione degli indignati in Italia, difende pasolinianamente la polizia. A Occupy Wall Street, invece, fa il profeta della protesta. Allora, Luca, farò altre citazioni, ma più brevi, tranne una più lunga. Non è che cedi un po' troppo e non salvi nessuno? Guarda, io mi sono attenuto a quell'autore che quando l'ho incontrato all'università, Vittorini, mi ha dato una bussola che funziona ancora adesso. E questa frase che è in epigrafe al libro, ma non è per ornamento, dice, era la prefazione, il primo numero di Menabò, una rivista diceva: io non sono contro le persone, sono contro gli errori e a favore delle ragioni delle persone. E ogni persona può passare attraverso una serie infinita, infinita di torti e ragioni, di cose giuste e di errori. E io nel libro ho cercato di fare esattamente questo, di usare quello che funzionava, che serviva, che era coerente, che era fondato, che aveva appunto un suo fondamento, anche contro l'intellettuale stesso. Oppure prendevo qualcosa, ho preso qualcosa di buono, per esempio di Umberto Eco, sicuramente è un bersaglio di molte analisi, però contro il complottismo che tra l'altro con il web alberga sempre di più nelle nostre menti, le intossica, lui attraverso un'analisi molto semplice di Popper spiega come smontarlo. Quindi il kit anticomplottista di Eco è utilissimo. Forse, diciamo, il suo repertorio di battute, frizzi, lazzi, giochi di parole, i suoi appelli, forse invece funzionano molto meno perché fanno sentire chi li firma e chi lo segue migliore, ma non cambiano di una virgola la realtà. Lo stesso si potrebbe dire per Baricco, per Saviano alcuni non si possono redimere perché in questi 20 anni, per esempio di Gianni Vattimo, è difficile salvare qualcosa. Vattimo, che da giovane era una fan prodigio della filosofia, è stato centralissimo, poi forse ha iniziato a fare il pifferaio di Chavez, l'inventore del pensiero debole che si invaghisce degli politici autoritari, dei dittatori come Castro o dei semidittatori come Chavez. Ecco, alcuni in questi 20 anni sono stati irredimibili, ce n'è anche per la destra, o se vogliamo chiamarla così, anche di chi ha giocato a fare il fascista per provocazione, esattamente come chi invece faceva finta di essere comunista. Berselli scrisse in Sinistrati che qualcuno diventò comunista dopo che Berlusconi era sceso in campo contro i comunisti. Forse non esistevano più i comunisti contro cui si scagliava Berlusconi e qualcuno ha detto: beh, forse io invece sono un comunista. Vattimo è diventato comunista e si è ritagliato uno spazio importante quello che ho chiamato l'avanspettacolo della politica. Ora, rispetto a chi ha cambiato molte volte idea, ne ha citati alcuni adesso, c'è chi invece non l'ha cambiata mai. Uno di questi è un autore carissimo al vasto pubblico italiano, Andrea Camilleri, e più volte ricorre anche lui nel libro di Luca Mastrantonio. C'è un'intervista che mi colpì moltissimo quando uscì di Camilleri e che Mastrantonio riporta. È un'intervista in cui Camilleri dichiara, insomma, che non ha mai cambiato idea sul comunismo. È un'intervista di Camilleri recente, perché è del 2011. Dice che i gulag non furono campi di sterminio perché altrimenti Solženicyn non sarebbe sopravvissuto. Dice che la superiorità del comunismo è garantita dal fatto che tutti quelli che poi sono venuti in Occidente, eccetera, eccetera, magari fanno le cameriere, ma sono tutti laureati in ingegneria. Oppure dice ancora, insomma, sì, vabbè, la libertà in cui crede l'Occidente, ma quale libertà? Bisogna costringere l'uomo a fare alcune cose, quindi alcune libertà personali vengono limitate, cioè non è che non vengono limitate anche qua, è libertà. La domanda che faccio a Luca, in questo caso, quando ci sono intellettuali di vastissimo successo che non hanno mai cambiato idea su cose così fondamentali come la libertà, perché poi la gente, secondo te, non dà alcun peso a queste cose? Perché la risposta è perché siamo scissi, perché questi 20 anni, pensa, Fini scrive un libro sul ventennio, un politico che è emerso da giovane con un programma del fascismo del 2000, poi è diventato antifascista. Siamo stati immersi in 20 anni di schizofrenia. Il bipolarismo non è purtroppo un sistema elettorale che ha funzionato in questi 20 anni, ma forse è una precisa patologia, una schizofrenia che È più per che vari altro il motivi bipolarismo come disturbo mentale. Ti interrompo qua mentale. perché abbiamo il minuto di informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:47, primi 29 secondi. Stiamo parlando di un libro, secondo me, da leggere, Intellettuali del piffero, come rompere l'incantesimo dei professionisti dell'impegno. l'editore è Marsilio e l'autore è qui con noi oggi pomeriggio, Luca Mastrantonio, un collega del Corriere della Sera, un giornalista che da sempre si è occupato, quando era giovanissimo davvero, ancora molto giovane, di cultura. Altra domanda, c'è un capitolo, alla fine di un capitolo, Luca, in cui mi hai stupito, è un capitolo, anzi è un capitoletto che si intitola Giustizia, la dea sbendata, e l'attacco con cui del capitoletto è questo: perché Saviano rispetto a Pasolini sa e ha le prove, ti riferisci a un famoso intervento di Saviano in cui disse io so, ho le prove di chi c'è dietro e così via, la camorra eccetera eccetera, e poi continua, o perché Tabucchi considera Travaglio un intellettuale e Cesare Battisti un semplice criminale, perché Andrea Camilleri sulla base di cosa fa il commissario del popolo? La risposta che dai a queste domande mi ha sorpreso, perché tu scrivi, perché hanno rapporti più che consenzienti con la magistratura che offre prove, indizi, a volte persino condanne. C'è un problema anche di intellettuali, scrittori con la magistratura in Italia, secondo te? Beh, per Pasolini c'era la famosa poesia che andrebbe letta, ma per i versi che non vengono mai ricordati, quella famosa perché si pensa che sia in difesa dei poliziotti e basta, contro i ribelli figli di papà, si intitolava Il PC ai giovani. E Pasolini, che è il padre di tutti questi intellettuali del piffero, lui era un grande pifferaio magico, che ovviamente ha un'accezione positiva e negativa, ma non così triviale come l'intellettuale del piffero e basta. Lui diceva ai giovani, prendete il PC, non prendetevela con i poliziotti, oppure prendetevi il potere, oppure andate contro il vero potere, cioè lo Stato che mette i figli del popolo, che fanno i poliziotti, contro voi figli di papà, e per esempio prendetela contro la magistratura, che è un potere dello Stato. E quindi per Pasolini, che ebbe anche problemi con la giustizia di varie nature, per lui la magistratura era un problema, era un potere con il quale bisognava fare i conti. Leonardo Sciascia, il fraterno e lontano amico di Pasolini, vedeva nella giustizia fino all'eccesso, fino al parossismo, fino a quell'espressione, per esempio a proposito di Saviano, professionisti dell'antimafia, un'espressione che solo un intellettuale illuminista come Sciascia poteva coniare senza malafede. Lui sosteneva che ci potevano essere carriere costruite su una militanza che superavano le regole consuete che erano l'anzianità. Lui diceva prima cambiamo le regole, le regole vanno cambiate e poi le persone devono emergere. Ecco, Saviano ha vendicato ovviamente dei grandi nomi della lotta all'antimafia, però processando in TV Sciascia per quell'espressione. La magistratura, attraverso le carte che produce l'intellettuale, penso che sia essenzialmente una persona che fa testo con quello che dice o quello che scrive, perché le sue parole hanno un peso, hanno un corpo, una visibilità. Ecco, la magistratura purtroppo per questo scontro che c'è in Italia da 20 anni tra potere politico e magistratura, perché ognuno c'ha sono due poteri che vengono incarnati dalle persone, sono le persone responsabili di quello che fanno, non esiste la magistratura come entità astratta, è una convenzione. Ecco, purtroppo molti soggetti, penso a Ingroia, penso forse anche a De Magistris, a Di Pietro, di cui si innamorano alcuni di questi intellettuali così un po' giacobini, beh, insomma, questi magistrati che poi entrano in politica producono o agevolano un legame tra quello che dovrebbe essere un pensiero critico e completamente distaccato da un potere coercitivo come quello della giustizia, ecco, invece creano purtroppo dei vincoli non puerili, cioè un intellettuale che la magistratura dice. Capisco, io naturalmente ho un criterio un po' diverso, per me è una vecchia sopravvenienza di un filone che è sempre stato molto forte nell'intellettualità italiana, da che esiste l'Italia Unita, cioè la parte di intellettuali che sono convinti di avere una logica ortopedica, che dall'alto devono cambiare il paese spiegandolo e così via, poi si incarna in diversi filoni, nell'orianesimo, nell'azionismo, nel giustizialismo, sono a seconda della storia, però la mia... non avevo mai riflettuto davvero su questo punto della magistratura, da questo ti ringrazio. Altro capitolo al volo, dopo tanti anni dall'analisi di McLuhan che arrivano i nuovi media e stravolgeranno la cosa dell'intellettuale e così via, mi sembra che tu sia un po' deluso di come questo non ha cambiato molto in realtà nell'intellettuale italiano. Fai il caso del filosofo Maurizio Ferraris che interviene su questi temi e poi il paradosso, inneggiando la rete, e poi il paradosso è che lui in rete non ci sta. Sì, la vicenda del nuovo realismo è stata tutto un regolamento di conti, io credo anche interessante e utile, però appunto tra Battimo, Ferraris, forse siamo usciti dal postmoderno di cui io confesso per i miei limiti evidentemente chiari, tra i quali io non ho capito cosa sia stato in Italia, ho capito che era qualcosa per cui tutti potevano dire qualsiasi cosa, il suo contrario come forma di citazione, quindi essendone totalmente irresponsabile. Ferrari ha fatto però un'analisi interessante sul piano ovviamente della teoria, e cioè che l'intellettuale è determinato dai mezzi che usa, e lo ha fatto spiegando che oggi la legittimità non arriva più solo dalla televisione, che resta ovviamente centrale, ma può arrivare anche da altri canali, dal web. Per ora non vedo grandi intellettuali e pensatori. Sono molto d'accordo su questo. Quindi, senti, diciamo, c'è un po', adesso domanda poco cattivella, non è che sei un po' misogino? No, finora siamo stati buoni. Ma no, ma se, no, non sei un po' misogino? Perché in realtà le intellettuali che citi... Misantropo. Insomma, misantropo lo sei, questo ti conosco, ma sulle donne corchi veramente di brutto, di mazzato, insomma, per così dire. Ho provato innanzitutto a metterne, per una forse forma gesuitica di perbenismo, di metterne il più possibile. E peraltro ho messo anche Melissa P, che magari io non considero, ma chi se ne importa. I colpi di spazzola. Sì, però quando fa la predica ai politici di centrodestra, perché Santoro le dà addirittura un palchetto, presentata dalla Giulia Innocenzi come Melissa Panariello, con un lapsus fantastico, perché appunto forse faceva un po' un numero da circo, ecco, lei ha spiegato che le orge si possono fare però con lo stile, con una delicatezza. Non sono il bunga bunga, lei disse. E non sono il bunga bunga, quindi ho messo anche la Melissa P. E poi le abbiamo definite, per dire una parola cattiva, sì, ninfomoralista. Ninfomoralista, è pesante. Sì, perché l'autrice di Porci con le ali, cioè Lidia Ravera, rimpiange a volte il pudore democristiano e quindi forse un po' sembra bigotta. Oppure Melissa P, appunto, che ha scritto 100 colpi di spazio alla prima di andare a morire e di andare a dormire, però forse editorialmente è finita lì, quindi questo è sensazionale. Senti, concludi poi il libro con una riflessione anche questa amara sul contrasto generazionale, per così dire, per cui sono i vecchi tromboni ancora che, insomma, editorialmente, televisivamente sembrano comandare. Com'è che c'è questo buco? Magari ci fossero veramente i vecchi tromboni, il problema è la colpa è soprattutto nostra, delle generazioni più giovani, che noi appunto, io spesso faccio outing, coming out quando me lo chiedono, insomma, io pertengo alla categoria dei giovani tromboni, cioè di quelli che simulano un tono o di avere una gravità in quello che dicono, perché però noi rispondiamo alle vecchie trombette, cioè a quelli che avrebbero tutto il diritto di essere tromboni. Insomma, dobbiamo rompere questa orchestra a fiati. Naturalmente c'è chi ti ha criticato, sì, perché hai scritto e firmato tu stesso un articolo sulla recensione del tuo libro sul Corriere della Sera. Io non ci ho trovato niente di scandaloso. Leggete questo libro. E ricordatevi, gli intellettuali non è detto che siano professori, lo so che ha detto da me, molti di voi sorrideranno, il professore spesso è quello che crede, come dice Luca, che una verità è vera solo perché c'è una nota a piedi pagina a sostegno, invece è un'altra cosa, intellettuali buoni servono a un paese buono, abbiamo bisogno di buoni intellettuali, continuate con Radio 24, grazie a Luca Mastrantonio e appuntamento con me a lunedì.